partire con il brano direttamente. Vabbè, magari Facciamo diciamo, due salutiamo, cose. magari no, oppure partiamo col brano, a Ok. parte che vabbè siamo noi. Vai, buongiorno, insomma siamo tra amici, se vuoi ti puoi anche avvicinare così tanto insomma siamo, magari arriva qualcun altro. Nel frattempo, io Alessandro, non so, magari ci vogliamo presentare, chi Sì. siamo? Sì. Allora, vai Alessandro. Questo sarebbe questo, sì, ok. Allora, io sono Alessandro Pecoraro, faccio parte di un'associazione che si chiama Caracò e con questa associazione, oltre a fare editoria e attività teatrali, cortometraggi, facciamo anche delle attività educative all'interno degli istituti superiori. E quindi nel corso degli anni abbiamo notato il cambiamento dei ragazzi e anche il loro modo di approcciarsi, quindi ovviamente per incuriosirli abbiamo iniziato a tentare nuovi metodi di interazione e ci è capitato insomma di utilizzare la musica trap come mezzo per analizzare il mondo di oggi visto dai ragazzi e di interpretarlo ovviamente facendo dei collegamenti anche con quella che è la società attuale con le mafie. Quindi insomma sono stato invitato qui per raccontarvi un po' la mia esperienza personale insieme a Lorenzo che è tra le altre cose anche un giornalista Sì, io faccio parte dell'associazione antimafia che si chiama Da Sud, che opera soprattutto a Roma, e poi insomma, per lavoro scrivo per Il Salvagente, come mensili di diritti e consumi, e mi sono occupato di trap, soprattutto sul lavoro culturale, che è appunto un portale, un blog di riflessione, soprattutto di sociologi, ma non soltanto. E quindi le due cose, insomma, i due argomenti che trovo, in cui mi sono molto occupato, non ti preoccupare, facciamo, non ti... vieni, che insomma li uniamo oggi in questa discussione. Ecco, volevamo appunto partire con un video che secondo noi è farvi sentire un video di tre rapper barra trapper, perché insomma poi magari nel corso del racconto proviamo anche a fare un po' di differenza tra i due mondi. Sono emergenti e soprattutto due su tre, cioè Massimo Pericolo e Speranza sono quotatissimi. Ecco, proprio l'altra le scorse settimane sono stati intervistati dalla Bignardi all'Assedio, delle bellissime interviste sulle loro esperienze, e che vengono da entrambi da mondi marginali, insomma. Anche lì poi entriamo nel percorso. Questa canzone che ha scelto Alessandro, Criminali, che fanno insieme a Barracano, che è un terzo rapper, ci sembra molto rappresentativa perché appunto nel testo parla di criminalità, ma lo fa in una maniera tale che ci permette di cominciare a ragionare su quelli che sono poi gli stereotipi sulla criminalità, e anche un po' il gioco semiotico, insomma il linguaggio che usano i rapper su qualcosa che è molto più complesso rispetto all'associazione trap, diciamo favoreggiamento della criminalità, diciamo così. Vai, partiamo con la canzone. Che sposta la pioggia, la dati mi puti. Se speri succederà, se spari non succederà. Se faccio più avanti per qua giri, questi bambini odiano gli sbirri. Dopo un sistema va ancora in bici, si fa 5 anni come fosse all'Isis. Se tu di birri, giù non ti va a Napoli. Ragazzi difficili, ragazze facili, ragazzi padri. Però senza i padri impari dagli sbagli, perché impari a farlo. Ma sono perché un killer vedi una volante, un padre di famiglia perché ha l'amante. Si rapina dentro al supermarket perché rapinarci qua sono le banche. Lancio bombe a mano insieme a Barracano, con speranza sopra un carro armato. Noi ci riprendiamo ciò che ci hanno tolto, ma gli diamo indietro ciò che ci hanno dato. Ok, allora penso che basta per adesso. Vai Alessandro. Ok, vai. Abbiamo deciso di partire con questo testo e ho trovato un video che faceva anche leggere il testo, perché secondo me questo è un testo molto rappresentativo di quello che oggi la musica rap barra trap vuole esprimere. E loro sono in tre, ho anche una foto che magari faccio vedere, giusto così. Non sono proprio tra i più giovani, un attimo solo, ok. Però la cosa interessante è che sono tre ragazzi che hanno vissuto tre vite totalmente differenti loro. Il primo, quello con la bottiglia di Bex in mano, Speranza. E lui è nato a Caserta e per problemi economici la famiglia si è trasferita in Francia. Infatti c'è tutta una serie di strofe, di barre all'interno del testo cantate in francese. E quando è tornato in Italia, perché anche nelle banlieue francesi viveva quasi al confine con la Germania, nei pressi di Strasburgo, si era reso conto, finite le scuole superiori, che non c'era futuro lì per lui, e quindi da una banlieue francese ha pensato che fosse meglio tornare nelle periferie della provincia di Caserta. E la cosa interessante è che lui adesso è da 6-7 mesi, ma da un annetto e mezzo, che in realtà già sta avendo molto successo, è stato intervistato da Daria Bignardi un paio di settimane fa. E lui nella vita continua a fare il muratore, guadagna 40 euro al giorno per vivere, e quindi lui in realtà canta Siamo criminali, però la sua è un'esperienza positiva, nel senso che lui, nonostante tutte le difficoltà, nell'intervista a Daria Bignardi dice la legalità è come se fossi un funambolo, quindi ti trovi a camminare tra l'illegalità e la legalità, però uno poi è una cosa personale, deve scegliere cosa vuole fare nella vita. Massimo Pericolo invece, che è il ragazzo al centro, che è giovanissimo lui, ha una storia totalmente diversa. Non viene da una periferia, da una banlieue francese o dal sud Italia, ma lui viene dal Varesotto. E la cosa particolare sua è che è stato dentro un anno in carcere per spaccio, e la musica l'ha salvato in un certo qual senso. Quindi lui quello che canta, in alcune barre anche lo dice, dice ragazzi padri però senza i padri, i bambini odiano gli sbirri. Perché li odiano? Perché ovviamente i genitori sono finiti in carcere, cioè vivono in un contesto del genere, perciò poi si odiano gli sbirri, come li definisce. Sarò ciò che odio perché odio i ricchi, e quindi la speranza di diventare ricco e di diventare quello che ha visto in altre persone, che però lui non è riuscito a fare, perché la vita gli ha permesso solo, nel suo caso, di spacciare. Questo è quello che lui ci racconta. Però poi dice: la musica mi ha salvato. E poi c'è Barracano, che è l'altro ragazzo che invece lui ha sempre vissuto in provincia di Caserta, a Caserta Vecchia. E tra i tre, diciamo, è quello forse che non ha avuto l'infanzia più difficile, però rappresenta tra i tre una persona comunque, lo stereotipo del ragazzo che ha più di 20 anni, che tra i 20 e i 30 anni, ma che non ha, ha tantissimi timori per il suo futuro, perché lo dice anche, dice: i miei amici non possono farsi domiciliari perché non hanno un domicilio. Io mi trovo a vivere in una situazione in cui non vedo futuro. E dice: chi sogna, sono ancora uno stronzo che sogna di cambiare il mondo, però purtroppo non ci sarà nulla che potrà mai cambiare questo mondo. E quindi comunque, nonostante il ritornello sia forte, perché ascoltato in modo disinteressato, sembra che si parli di criminali, quasi di un inno alla criminalità, in realtà poi se si va ad analizzare il testo e il contesto in cui chi sono queste persone che hanno scritto questo brano, e che comunque ha fatto due tra YouTube, Spotify e tutti gli altri canali, è arrivato quasi a 3 milioni di views, è nuovissimo questo brano, è uscito da un mesetto, insomma. E questo vuol dire, insomma, che loro, a prescindere dal ritornello e da quello che può sembrare ad un pubblico disattento, in realtà trasmettono qualcosa. E questo qualcosa che trasmettono è anche un profondo senso di inquietudine verso la realtà in cui vivono. Infatti, con Lorenzo abbiamo parlato di questo senso di inquietudine, dovuto da un lato anche che è legato anche ad una posizione contro le istituzioni, no? Se vuoi dire qualcosa. Sì. Questa è una delle ragioni per cui la trap risulta ostica a chi fa parte di un'altra generazione che non è appunto quella dei nati, possiamo dire, insomma, attorno al 2000. Soprattutto a noi che siamo nati, insomma, a cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, insomma, la generazione dei quarantenni, ecco così, ci sembrano degli alieni. Una ragione è quella musicale. La trap è un tipo di, diciamo, un sottogenere, una derivazione del rap, che è ancora più ostico. Le parole, diciamo, il ritmo è spesso rallentato, le parole sono, non è importante scandire in maniera, diciamo, chiara, ma insomma porta più il suono, le rime sono meno ricercate nella maggior parte dei casi. E poi c'è la questione, diciamo, che riguarda il contenuto, il famoso messaggio, diciamo, della trap, che è del tutto alieno anche a chi è un amante del rap, diciamo, così come è arrivato in Italia. Per questo è importante, secondo me, anche per capire un po' qual è la differenza tra quello a cui siamo stati abituati a livello di musica alternativa, o adesso si dice indipendente, e quello che è la trap, capire anche il diverso modo di essere, diciamolo così, insomma, in maniera, magari tagliandola con l'accetta, antiborghesi o antisistema. E in questo gap c'è anche un po' la differenza. Io questo, diciamo, permetto di fermarlo perché magari poi dà fastidio, va troppo veloce. La differenza, il rap arriva in Italia, diciamo, a parte gli esperimenti proprio embrionali della fine degli anni 80, negli anni 90 esplode all'inizio. È per una questione che credo che sia peculiare soltanto nel nostro paese, forse la Francia, ma la Francia c'è anche una questione, diciamo, è già partito con una questione legata alle condizioni delle banlieue, delle periferie, per cui c'è anche una sua peculiarità. È l'unico paese in cui il rap parte fortemente politicizzato. Chiaramente, quando parliamo di rap non parliamo di giovanotti, ma comunque non faceva parte del mondo della cultura hip hop, ma i primi esperimenti di rap in Italia sono quelli di, per capirci, Isola Star Post, gli assalti frontali a Roma. Un nucleo fondante del rap, diciamo, è qui a Bologna con con Neff, DJ Graff, insomma tutta quella parte lì del rap. E sono diciamo linguaggi nuovi che si sviluppano in maniera più o meno politica, perché appunto gli assalti frontali a Roma, gli AK-47 a Roma, piuttosto che i 99 posse a Napoli, hanno già nei testi, nell'espressione diciamo del messaggio della canzone, una politicizzazione molto esplicita. Adesso ecco, così a volte la storia torna, si riavvolge su se stessa. Lo slogan delle sardine, Bologna non si lega, adesso eccetera eccetera, uno dei primi brani rap che è circolato nel mondo underground era proprio Slega la Lega, insomma era proprio un riferimento, era proprio quel gioco di parole lì che adesso si ritorna a utilizzare. Chiaramente era un'altra Lega, ma diciamo c'era quell'urgenza. C'erano altre parti del movimento hip hop, diciamo così, che erano meno politicizzate in senso stretto, comunque in senso esplicito. Parliamo appunto per esempio di Sangue Misto, il gruppo di Neffa. Per chi di voi non lo sapesse, insomma, Neffa prima di fare canzoni pop e soul come fa adesso è stato diciamo un po' uno dei pionieri del rap italiano, e possiamo forse dire il Maradona del rap italiano, cioè quello che è arrivato a dei livelli di metrica, di flow, come si dice nell'ambito del rap, quindi di capacità di produrre uno stile anche nel cantato che è giudicato da tanti inarrivato. E quel tipo di rap lì, che poi faceva capo soprattutto a Bologna, aveva una politicizzazione più implicita, era più esistenzialista da questo punto di vista, era più simile anche ai testi un po' più, non voglio dire impegnati perché non lo sono, però più introspettivi di alcuni cantanti rap, trap di ora, insomma rap trap di ora, però veniva esattamente da quell'humus culturale lì, cioè quella musica, pure quella che non spiattellava, cioè il rigurgito antifascista, insomma, o i testi degli assalti frontali, eccetera, nasceva nell'humus dei centri sociali, nei centri sociali e della scena antagonista italiana. Perché negli anni 90 non far parte del mainstream, che ancora manco si chiamava mainstream, insomma, della musica pop di questo tipo di cultura, era una medaglina da attaccarsi sul petto. E già questa vediamo una prima differenza con quello che c'è adesso. Adesso chiunque parta dalla sua cameretta facendo un pezzo trap aspira a diventare, ad entrare nello star system, cioè ad arrivare. Poi magari appunto raccontiamo magari in una seconda fase la differenza tra farcela da soli o farcela in gruppo. E che significa? Che tutti quelli che non si riconoscevano nella musica pop italiana o straniera di quegli anni, quindi italiana che c'era negli anni 90, verso Giorgia, non lo so, Ramazzotti, non so ancora chi è che comandava nella musica italiana, e quindi una roba in cui era molto facile per un ragazzo di 14 anni non riconoscersi, avevano rifugio in altre parti, chi nel punk, chi nell'hip hop, appunto, e questa roba qui. Comunque c'era un humus di comunità antagoniste che esistevano. E diciamo l'apice dell'esplosione dei centri sociali è stata appunto all'inizio degli anni 90, poi hanno cominciato in qualche modo a implodere. Esistono ancora, ma sono molto meno centrali come collettori della cultura alternativa di questo paese. Quella roba lì adesso non esiste più. Questi i ragazzi che fanno rap oggi si muovono in un teatro, diciamo così, del tutto differente. Se oggi gli attori in campo, anche a livello politico e istituzionale, sono i 5 Stelle o è Salvini, che è vero rappresenti il partito più antico in Parlamento che la Lega, ma noi sappiamo tutti benissimo che la Lega di oggi non è la Lega di 30 anni fa, nel senso il salvinismo, così viene detto, insomma, e assomiglia più come gestione del partito a quello che abbiamo visto con Renzi, con Grillo, con i 5 Stelle, insomma c'è un altro tipo di intendere i rapporti di forza, che è più fluido, che è più personalistico, che è più adatto ai tempi di oggi. I ragazzi che oggi fanno trap e hanno 20 anni sono nati proprio in questa fase qui, una fase che potremmo dire di macerie post ideologiche, cioè quando crolla tutto il blocco, diciamo, adesso siamo a 40 anni, non vorrei dire una sciocchezza, a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, crolla quella divisione ideologica, chiaramente diciamo traballa tutta la tutta l'impostazione, diciamo, delle, anche dei, dei grossi partiti italiani. C'è, c'è Tangentopoli, ci sono al sud le, la, la primavera siciliana, le stragi di Falcone e Borsellino, insomma non si può dire che non ci sia stato un vero e proprio terremoto politico e sociale negli ultimi, in quegli anni lì di passaggio, che sono anche fin troppo poco indagati, quelli che vanno dal 90 fino al, al 2008. Dopo questa, questo sisma, che succede? Lì a pochi anni parte la più pesante crisi economica, che non è ancora finita, 2007-2008, dagli anni 70 almeno a questa parte. Quindi noi siamo in, in una crisi economica che viene un po' mascherata, perché poi abbiamo in Italia il paese dove le famiglie fanno la welfare più di qualsiasi altro in, in Europa, con più possidenti di case, con più risparmi eccetera, quindi c'è un salvagente, diciamo, del, rispetto alla crisi, che la rende meno evidente. Però significa dal 2007, siamo nel 2019, sono 12 anni di crisi interrotta. Questi ragazzi nascono in questo contesto qui, non c'è una rete sociale, non c'è una rete sociale antagonista, c'è una, un'atomizzazione anche della, della, dei rapporti, dovuta anche al, al, al, all'arrivo dei, dei, diciamo, della comunicazione, del, dell'epoca dei social, quindi la virtualizzazione dei rapporti. Per cui, intanto, per cominciare a approfondire la, la conoscenza della, della trap e di questa roba lì, e il loro rapporto anche col concetto di legalità e illegalità, dobbiamo partire quantomeno da questo contesto. Non possiamo chiedere a un ragazzo che scrive una canzone come quella che abbiamo sentito di avere una consapevolezza politica e sociale che non esiste più a livello strutturato, almeno da quando è nato. E non gli si può chiedere di avere una pazienza nel suo percorso per la realizzazione personale o collettiva che non può avere una persona che ha visto nei fratelli maggiori, nei genitori, nei, nei parenti, negli amici, diciamo, che hanno qualche anno in più, crollare miseramente molto spesso negli ultimi anni. Questo, diciamo, è, forse non so, diciamo, se mi sono allontanato, ma era per dare un contesto iniziale al sospendiamo un attimo il giudizio noi che abbiamo qualche anno in più e cerchiamo di capire in che contesto nascono. Sì, no, io faccio invece un ritorno alla trap attuale, ai testi dei trapper attuali. E qui vediamo Enzo Donga, ad esempio, che questo ragazzo, lui viene, questo ragazzo in giacca, lui viene dal rione Don Guanella a Napoli, che praticamente è un rione che si trova tra Scampia e Secondigliano. E la sua storia è particolare, come quella, però può essere assimilata anche alla storia di un qualsiasi Sfera Ebbasta che arriva dalla periferia milanese o di un Achille Lauro che arriva dalla periferia romana. Infatti una delle cose interessanti è che analizzando i testi di questi trapper, lui Dong significa proprio Don Guanella, ma anche dove ognuno nasce giudicato, cioè lui questa assenza delle istituzioni, di una cultura diversa rispetto a quella in cui noi siamo stati abituati perché nati in un periodo differente, la sente e la vive a tal punto che il suo nome è l'acronimo di dove ognuno nasce giudicato, per dire io sono io che rappresento me stesso e rappresento le altre persone tramite le mie canzoni che vivono nel mio quartiere, nel mio rione, o che vivono in altri rioni e contesti simili, tant'è vero che lui fa tantissime collaborazioni con trapper di altre città che con cui si riconosce. E quello che racconta è proprio questo, il contesto in cui vive, nel contesto anche criminale in cui vive, però lui se ce la fa e se ce la sta facendo da solo, perché non ha avuto l'aiuto di nessuno. Ad esempio c'è un brano di Enzo Dong dell'ultimo CD che è uscito da pochissimo, che il suo brano di apertura, lui ne va orgoglioso, il titolo si chiama Vengo dalle vele, e lui dice io vengo dalle vele, e lo racconta spiegando anche episodi di criminalità che magari ad un pubblico disattento possono sembrare, può sembrare il classico testo trap in cui si elogia la criminalità organizzata o la droga o il successo tramite le donne facili, insomma, ma non è così. E lui nel testo, cioè un vero e proprio testo di denuncia sociale, dove lui alla fine di questa canzone c'è tutta, c'è un minutino di testo di lui, preso da lui, c'è un minutino verbale in cui lui parla a un concerto nel suo rione, dove dice: io questo, se sono arrivato qui, lo devo per voi e, no, e per nessun altro, solo perché voi mi avete sempre sostenuto, e devo ringraziare a mia madre se ce la sto facendo, devo ringraziare i miei fratelli, inteso come i suoi amici che l'hanno aiutato. E secondo me questa cosa si rivede anche in Sfera Ebbasta. È uno dei suoi pezzi di maggiore successo prima che arrivasse alla, che l'ha portato alla ribalta, Visiera a Becco. In realtà, questa sfera, eccolo. Lui in Visiera a Becco racconta proprio lo spaccato di vita del suo quartiere alla periferia di Milano. E, tra l'altro, hanno in comune tutti questi trapper spesso anche il fatto che i genitori, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, i padri non li hanno mai avuti e quindi si sentono anche quasi in obbligo di aiutare le madri. E questa cosa è interessante perché comunque ti portano tramite questi testi. Lui in Visiera a Becco dice: ho preso proprio una barra che dice: oggi è un altro giorno in cui non cambia nulla, e qui chi non ha nulla si sveglia e rinuncia a una vita normale, a un lavoro normale, a una tipa, a una casa, a un bambino, ad un cane. Che può sembrare una barra così all'interno di un testo di Sfera Ebbasta che si fa le foto con la droga, oppure che si veste così perché vuole apparire, però in realtà lui se appare così è perché decide di vestirsi in modo appariscente, anche perché come vive lui, ha vissuto la sua adolescenza, la sua infanzia, tra l'altro è appena uscito dall'adolescenza Sfera Ebbasta, è giovanissimo, e questo è il suo grido di ribellione contro appunto una realtà che non gli ha regalato nulla e che si è dovuto conquistare lui per acquistare una casa alla madre, che poi è lo stesso che si rivede in tantissimi altri rapper. C'è ad esempio Joliet, che è un altro rapper napoletano che ha 17 anni, che in uno dei testi dice alla madre: mamma, tu mi dici che ce l'ho fatta, ma io ce la sto ancora facendo, ce l'avrò fatta quando ti potrò comprare una casa e regalarti la salute che non hai. Oppure c'è Rocco Hunt, che ci ha fatto la carriera, diciamo, in ogni CD viene sempre citata la madre come esempio di persona che ha fatto sacrifici per lui, e lui si sente in obbligo di ricompensarla. Quindi in realtà, a parte i messaggi effimeri, classici, che possono apparire a prima vista anche da una foto del genere, no? Quello che c'è dietro in realtà è anche un senso di inquietudine. E a tal proposito ti volevo proprio chiedere una cosa che è legata all'inquietudine, l'ansia e la depressione di questi giovani, perché dietro tutto questo c'è anche un senso di vuoto e di paura interiore in molti di questi brani. Sì, questo magari prima, però siccome mi interessa molto il discorso di Enzo Dong, Napoli, magari ritorno così e poi... perché tu hai fatto giustamente un passaggio da Napoli a Milano sulle periferie e poi sul disagio. Ci sono cose che come ha detto bene Alessandro, legano la periferia di Milano, nel caso di Sfera Ebbasta mi pare che sia Rozzano, nel caso di Marrakesh per esempio, che invece è un cantante di mezzo, insomma è un rapper, diciamo, della generazione precedente, che però lavora molto bene con i trapper, la Barone eccetera, e invece è un cantante che viene da Napoli e soprattutto da quei quartieri. Molto interessante, ho letto un po' di interviste sia di Enzo Dong che di Vale Lambo, che sono due, entrambi vengono da quartieri ad alto tasso camorristico, ed entrambi hanno in comune questa cosa, forse a differenza di Rocco Hunt, poi non a caso Rocco Hunt viene in realtà da Salerno, quindi da una realtà dove chiaramente la camorra esiste, ma probabilmente è meno violenta nella manifestazione quotidiana di quanto può essere a Secondigliano, a Forcella o altri quartieri, insomma, popolari di Napoli. Però mentre appunto Rocco Hunt si, diciamo, si prodiga per dire, insomma, per parlare di giorni buoni, di positività, insomma, in questo è molto più simile a Jovanotti che non a, che non a, a Enzo Dong, oppure a Iko Sang, che erano il gruppo, diciamo, il primo gruppo napoletano di rap di Secondigliano, che di Scampia, da cui poi sono venuti fuori Luchè e Ntò, che sono soprattutto Luchè, dei nomi molto grossi adesso. E raccontano invece un contesto in cui parlare, non parlare di camorra, di clan, di distese, del pacchetto di eroina in tasca da andare a distribuire, di pali, di vendette, eccetera, eccetera, sarebbe raccontare favole. E siccome il rap e anche la trap in qualche modo nasce per raccontare la realtà, quella che si vive, non a caso, almeno fino a quest'ultima ondata, insomma, uno degli insulti peggiori che si poteva fare tra rapper era: tu non sei vero, tu non sei credibile, perché raccontare qualcosa che non si viveva, che non si conosceva, era il peggiore insulto per quel mondo lì. Mentre avete mai sentito dire, insultare, non lo so, De Gregori perché ha scritto Titanic, ma tu non c'eri su quella nave, no? Insomma, è una, in altri mondi non è una priorità, nel mondo rap, trap è lo è stato. Cantanti e trapper come Enzo Dong, oppure Vale Lambo, che vengono, mi pare uno da, appunto, come dicevi, da Secondigliano e da Forcella, quando si parla, si descrive la vita che fanno, si descrive inevitabilmente la camorra. Quando poi tu vai a vedere, e c'è anche un mimetismo, nel senso, nel momento in cui io vado a raccontare quello che vedo scendendo per strada alle vele di Secondigliano, alle case dei Puffi, insomma, a tutti i vari sottoagglomerati di palazzi da cui vengo, il rapper pone lo sguardo del ragazzo che vive tutti i giorni quella situazione. Non fa, diciamo, l'io giudicante o l'io narrante esterno, non dice: ah, i ragazzi qua muoiono di fame, la politica non interviene. Ma la forza del rap è quella di assumere in prima persona. Attenzione, perché poi è la vita che fanno questi rapper, questi trapper, che fa la differenza. Ci sono dei passaggi molto belli di queste interviste, però non ricordo nello specifico se è Vale Lambo o Enzo Dong, che dicono banalmente: a me la musica mi ha salvato da una strada brutta, lo dicono in tanti e effettivamente. Però nello specifico come la declina questa cosa? Quando mi dicevano: scendi, andiamo a fare qualche impiccio, io mi salvavo dicendo: no, aspetta, devo registrare una canzone, devo ascoltare un'altra canzone. Ed era il modo per evitare di fare delle cose che altrimenti avresti fatto, perché magari tra i tuoi amici la metà spacciavano, la metà, insomma, facevano altri tipi di impicci. E questo è molto importante, nel senso, saper distinguere tra il racconto che si fa e la vita che si fa. È come quando un po' si accusa Saviano, poi chiaramente il concetto, il discorso di Saviano è molto più complesso, però quando si accusa Saviano di fare, di essere quasi il braccio, diciamo, narrativo della camorra, perché tu vai a fare una serie come Gomorra, che viene apprezzata in tutto il mondo, eccetera eccetera, e quindi in qualche modo fai il gioco perché li rendi glamour e così via, si perde un pezzo che conta chi racconta quella cosa e che vita fa. Questa cosa qui, nei messaggi così complessi e così fraintendibili, è importante. Questi sono tutti ragazzi che, invece di andare a ingrossare le braccia della criminalità organizzata, si sono messi magari 10 ore, 20 ore in studio, e magari quando non erano in studio andavano a lavorare in una pizzeria o a fare qualcosa del genere, e si sono tirati fuori da soli dalla situazione disastrata. E concludo dicendo: questa è la cosa che unisce questi tipi di trapper in tutta Italia. Dico questi tipi perché non tutti i trapper vengono da un mondo, da una periferia disagiata. Mi viene in mente la Dark Polo Gang, per esempio, sono tutti figli, diciamo, grosso modo della borghesia romana. Side Baby, che si faceva chiamare con loro Dark Side, che è uscito dal gruppo, adesso sta da solo, è il figlio di un famoso regista, Francesco Bruni, che è anche uno sceneggiatore molto apprezzato di commedie. vive a Rione Monti, che è un rione super centrale, molto radical chic di Roma, eccetera, eccetera. Quindi ci sono anche dei trapper che hanno un'altra storia. Quelli che vengono dai quartieri disagiati, come diceva Alessandro, come Sfera Ebbasta, come Gali, nel caso di Milano, come Tedua nel caso di Genova, e Izzy pure, hanno in comune che vengono da contesti in cui non è che devi farcela da solo perché è un po' un vezzo, perché è un'ostinazione, perché è caparbietà, perché sono quartieri in cui non esiste alcuna forma di presenza dello Stato che non sia pura repressione quando c'è. Cioè non esiste un welfare che aiuta la madre sola a crescere un bambino, gli autobus passano poco e male, non funziona nessun tipo di servizio sociale, si fanno questi casermoni dove magari prevedono al pian terreno i negozi che dovrebbero aprire e non aprono mai, non ci sono giardini, se ci sono sono abbandonati a se stessi e quindi diventano luoghi di ritrovo, diciamo, dei tossicodipendenti, dove si vanno a fare eccetera eccetera, dove c'è lo spaccio. E lo Stato, quando si vede, in questa c'è la comunità, diciamo, l'incrocio con le balie francesi, lo Stato quando si vede molto spesso si vede soltanto per fare le retate e quindi viene visto soltanto in maniera punitiva, oltretutto in maniera punitiva per quello che viene inteso come l'unica forma di reddito che spesso viene offerto ai ragazzi. E chiaramente non stiamo facendo una difesa dell'economia dello spaccio, anzi. Però per un ragazzo di 14 anni a cui viene detto, come appunto dicevi tu, dove ognuno è giudicato, a me che vengo da Scampia nessuno in centro mi offrirà mai un lavoro perché sono marchiato, come sono magari marchiati i Rom, i Sinti quando vanno a cercare un lavoro, l'unica possibilità che mi viene offerta di arrivare a fine giornata, o anche quello, anche il futile in qualche modo ha una sua dignità, anche di essere come un altro ragazzo, come un figlio di papà che ha la scarpa bella, anche quello per me a 15 anni è un valore, poi ne possiamo discutere se sia un valore degno o meno, però i ragazzi a 13-14 anni ragionano in quel modo. L'unico che mi dà dei soldi per fare qualcosa spesso è il capo piazza, insomma quello che mi mette a fare il palo, a spacciare. E quando arriva la polizia, smantella quella rete, quel ragazzo che non c'è gli strumenti culturali per capire il quadro complessivo, dice loro sono nemici, perché arrestano mio padre, mio zio, perché arrestano mio compagno, arrestano me, perché vengono a distruggere e non costruiscono nulla. In questo c'è una comunanza, diciamo, un po' in tutti questi ragazzi che vengono. In uno dei video di Sfera Ebbasta, sempre di quel periodo di Biseria Becco, che si chiama... un acronimo che sta per bravi ragazzi in brutti quartieri, lui canta sopra una macchina, seduto sul tettuccio di una macchina polizia, quindi sfregiando quella roba lì, nel video della canzone, magari poi lo facciamo sentire, che è molto forte, 7 miliardi di Massimo Pericolo, che è una canzone pesantissima, molto nichilista, eccetera eccetera. Però ci sono anche delle immagini che ritraggono una macchina con tutta una serie di stencil attaccati adesivi che chiedono giustizia per Giuseppe Uva, che è una delle tante persone in questi ultimi anni che sono state uccise durante un arresto di polizia, come Federico Aldrovandi, come Stefano Cucchi, eccetera, eccetera, e per cui non è mai stata fatta giustizia. Sono, diciamo, allora... uccise, forse è una parola forte, che sono morte in maniera molto sospetta, mentre erano in mano della polizia, diciamola così, ecco. Per cui vediamo che ci sono tanti motivi per cui si sviluppa questo sentimento anti-istituzionale, eccessivo, aggressivo, diciamo come volete, che però ha delle basi precise. Io chiudo questa parte facendo vedere una canzone di Enzo Dong, se sei d'accordo, che un po' riassume il fatto di ci sono, e queste cose esistono, noi raccontiamo, io non sto giudicando, anzi mi fa male raccontarle. Questa canzone si chiama Ciro, che parla di un ragazzo che entra, che ha dei sogni, entra nel meccanismo della camorra e viene ucciso, e il ritornello dice: nasce un Ciro, muore un Ciro, nasce un altro Ciro, ogni giorno è un ciclo infinito che non si spezza mai, e non si spezza mai perché lo Stato, le istituzioni, la politica non interviene mai a spezzarlo. Cioè chi ha, anche la scuola, insomma, diciamo, non semplifichiamo, però chi ha potere di spezzare questo ciclo non interviene mai, e quindi ogni giorno nasce un Ciro e muore un Ciro, muore un Ciro e nasce un Ciro continuamente, e questa mi sembra una consapevolezza alta. E facciamo sentire questa canzone. Naturalmente siamo in pochi, cioè siamo tranquilli. Quando avete delle riflessioni, delle domande, dei dubbi, intervenite tranquillamente. Siamo veramente, se vi viene in mente una cosa su cui vorreste approfondire, noi insomma ci facciamo una chiacchierata con un grosso piacere. Giudicato, chiude la canzone, insomma, ripete un po'. Sì, diciamo che senso. Dove ognuno nasce giudicato, lo ripete spesso in ogni canzone. Lui, se avete avuto modo, avendo avuto modo di vedere il video, penso che avete notato come sia un video molto semplice. Cioè, una delle caratteristiche di quasi tutti i trapper è quella lì di partire. Cioè di avere questo sogno di diventare famosi dalle loro camerette sostanzialmente. Enzo Dong, Sfera Ebbasta, ma anche Capo Plaza ad esempio, che è un altro, lui viene da Salerno, però ha 40-50 milioni di views ogni brano fa solo su Spotify. E tutti questi hanno in comune il fatto che loro raccontano la loro realtà. E perché hanno questa esigenza di scrivere e di sfogarsi, però lo fanno partendo veramente con pochi strumenti, cioè c'è solo la forza di volontà in pratica. Una cosa interessante legata al cambiamento della musica che faceva accenno all'inizio quando Renzo parlava della musica negli anni 90 e la musica attuale. Quello che è cambiato, diciamo, è che se prima erano i cantanti, i musicisti, i gruppi, le band che rincorrevano le etichette discografiche, portavano le demo, speravano di avere una produzione, di avere soldi per fare video, per andare in giro per l'Italia e farsi conoscere. Negli ultimi anni, ma è una novità davvero degli ultimi 4-5 anni, la situazione si è stravolta completamente. Sono le etichette discografiche che provano a rincorrere questi cantanti, e c'è un sistema molto più, tra virgolette, democratico anche di avere successo, perché è vero che si possono comunque acquistare le views, però poi alla fine sono pochi quelli che riescono a sfondare. Lo fanno perché è grazie a loro stessi, insomma, grazie al loro lavoro, e quello perché poi appaiono sempre loro, ma in realtà c'è un lavoro fortissimo dietro anche dei produttori, che non sono i produttori che hanno i cantanti della musica magari indie attuale, o quelli che hanno i cantanti di successo della musica pop italiana internazionale. I loro produttori spesso sono ragazzini di 15-16 anni che magari diventano produttori perché non sono troppo bravi a fare i rapper, non riescono a scrivere bene le barre o altro, allora si concentrano sulla produzione musicale, e alla fine vengono ambiti anche da cantanti pop, indie o di altri generi. Tra l'altro è la prima volta nella storia, diciamo, dell'industria discografica con i rapper di ultima generazione, che i producer, insomma i produttori, cioè sono quelli che fanno, poi nel rap basicamente la maggior parte delle volte chi fa la base o chi l'arrangia, ma soprattutto chi la fa, sono delle star, tanto quanto cioè in Italia un ragazzo di 15 anni conosce Sick Luke o Charlie Charles o altri Night Skinny, tanto quanto appunto i cantanti rap che sente. Questo non era mai successo. Infatti questa è una cosa interessante, perché sta a significare proprio come in realtà servono molti sacrifici per arrivare a fare questo tipo di musica, avere questi numeri, ma al tempo stesso basta poco, nel senso che bastano due amici che, a posto di andare a delinquere, si chiudono. Renzo Dong lo racconta in quasi tutte le interviste, lui si ha vissuto praticamente tutta la sua adolescenza chiuso in camera a lavorare sulla sua musica, e il CD che ha fatto adesso l'ha fatto producendolo praticamente nella sua camera. E la cosa interessante è che se andate a vedere pure le classifiche di quest'estate, c'erano un paio di canzoni di un trapper di Torino che ha una storia diversa, Boro Boro, però è interessante perché lui aveva provato anche a partecipare ad X Factor un paio d'anni fa, e lì la cosa era interessante perché passa la prima fase, il suo giudice assegnato è Mara Maionchi. E no, lui avanti saputa a esperta di rap, tutti sanno quanto lei sia ferrata. No, infatti, però la cosa interessante è che lui dice a Mara Maionchi, dice: guarda, io voglio fare la mia musica, cioè io non voglio fare le cover o fare il rap o il trap sulle cover, io ho la mia musica e voglio fare quella. E giustamente Mara Maionchi dice: guarda, tu sei pure bravo, però che sei venuto a fare qua? E lo manda a casa. Boro Boro, dopo 8 mesi dalla messa in onda di quella puntata di X Factor, dei preliminari, eccetera, dove lui viene mandato via, ma lui è anche contento perché lui già aveva raggiunto il suo obiettivo, andare lì e cantare il suo inedito nella fase iniziale delle selezioni. Finisce primo in classifica su Spotify con il suo produttore e si autoproduce. Questa è una cosa che ho saputo, l'hanno rincorso tantissimo gli Universal, Sony. Lui ha detto a tutti quanti di no, perché ha detto: un anno fa sono venuto io a bussare le vostre porte e avete detto di no, ora i numeri li faccio da solo e se permettete guadagno di più. Tra l'altro poi nel giro di questo, quando è successo? Un paio d'anni? Nel giro di un anno, quando è che si è presentato a X Factor? L'anno scorso, quindi nel giro di 2 anni sì. C'è stato poi, diciamo, la via di mezzo masticabile, diciamo, per il grosso pubblico di rapper, che è cosa? Anastasio, che è uno, insomma, che fa rap, che c'ha anche contenuti, però onestamente nel panorama nella scena rap italiana non è molto apprezzato, e l'anno dopo addirittura il re della trap diventa un giudice di X Factor, quindi in 2 anni cambia completamente il mondo, insomma, dal punto di vista discografico. E un'altra cosa, agganciandomi a questo tema della produzione musicale, dell'industria musicale, una cosa che è uguale e completamente opposta allo stesso tempo alla musica, diciamo, indipendente di strada di 20 anni fa, è la forma totalmente diversa di autoproduzione. Cioè, negli anni 90 tu ti autoproducevi, facevi le cassette, ti facevi le tue etichette discografiche, ma erano molto rudimentali, avevi i tuoi giri, andavi nei centri sociali, andavi insomma al massimo alle feste dell'unità, eccetera, e quello era. Se entravi nel mondo dei big, tu non ti dovevi occupare più di nulla, c'era l'ufficio stampa, c'era chi ti diceva come vestirti, eccetera, eccetera, e diventavi appunto una pedina in un sistema più grande. Adesso diciamo, il giro si completa, ma con un altro colore, cioè nel senso, adesso invece le case discografiche sono disposte, le grandi case discografiche, quindi la Universal, come dicevi tu, la Sony, sono disposte a lasciare molto più spazio all'indipendenza di questi artisti, perché i numeri gli danno ragione, perché se tu senza una casa discografica alle spalle riesci a fare magari 2 milioni, 3 milioni, 10 milioni di views sui social, vuol dire insomma che c'è poco da aggiungere, e sia perché loro nel frattempo hanno cominciato a autoprodursi sin da piccoli, sin nella loro cameretta, però a differenza di quello che succedeva 20 anni prima, lo fanno già da professionisti. Cioè, mentre l'autoproduzione nell'epoca punk o comunque del primo pop era sinonimo di rozzo, di sporco, anche quasi di amatoriale, anche con un certo vanto, poi possiamo discutere se questo vanto fosse legittimo o meno, oggi l'autoproduzione in cameretta, il video fatto da soli, viene fatto già con l'obiettivo di farlo il più possibile degno di essere una roba che potrebbe fare anche la Sony, diciamo, chiaramente con le differenze di mezzi, però c'è già una e qui, diciamo, secondo me entriamo in un altro tema importante della trap, cioè quali sono i valori esibiti in molte canzoni trap, e il denaro, cioè sono i Rolex d'oro, sono le collanone, adesso insomma giro la cosa Alessandro, lascio solo questa immagine che è proprio l'apice di questa contraddizione per cui i trapper vengono odiati da generazioni di persone venute prima e anche da alcuni coetanei. L'anno scorso Sfera Ebbasta, diciamo il mega concertone dei sindacati a Piazza San Giovanni a Roma del 1º maggio, capisce che ormai non ha più presa perché fa musica del tutto scollata dai gusti giovanili. Scusate, non sto parlando troppo vicino, non c'è bisogno visto che siamo in famiglia. E quindi che fa? Tra l'altro, scollamento che riassume benissimo Elio Le Storie Tese nella canzone del concerto, come la banda del 1º maggio, che dice un po' tutte le chitarre scordate, le canzoni folk comuniste, eccetera, e si apre ai nuovi gusti musicali, no? Quindi si apre ai nuovi stili, e invita Achille Lauro, invita Jamie Tyson, tutta questa nuova ondata. Che fa? Sono troppo si lontano? Sente? E invita tutta sta gente. La sera l'artista di punta è Sfera Ebbasta. Chiaramente i numeri gli danno ragione, nel senso Sfera Ebbasta è il primo in classifica col suo album. Sfera Ebbasta si presenta, oltre che col suo look strano, appunto alieno per noi, quindi con sti marsupi che noi eravamo rimasti che erano da sfigati, invece improvvisamente i marsupi sono da fighi, e soprattutto fa questa storia su Instagram, prima di salire sul palco, sto salendo sul palco, sono qua, e fa vedere c'ho 2 Rolex d'oro al polso. Allora, questa cosa, oltre ai testi delle canzoni che sono accusate di misoginia, eccetera, poi magari facciamo un passaggio anche su trap e donne, scatenano un putiferio. Quindi cosa c'entra questo con noi? Noi siamo la sinistra, noi siamo i ragazzi che vanno a sventare la bandiera Che Guevara, questo viene e ci spiattella in faccia questi Rolex d'oro. Sì, in realtà mi collego proprio collegando. Questo è anche proprio dovuto al fatto che, cioè, Sfera Ebbasta si veste così, sfoda al polso i Rolex d'oro per dire io ce l'ho fatta, cioè io arrivo da lì, nessuno mi ha aiutato, me lo sono sudato e ce l'ho fatta. Questa è una delle cose che più di tutte probabilmente le generazioni differenti a quelle dei ragazzi di oggi non riescono a capire ed interpretare. Vedere un ragazzo come Sfera Ebbasta con gli occhiali buffi, lui non sa nemmeno suonare la chitarra e il vestito di rosa, così può sembrare questo è scemo, cioè è un deficiente, tu che segui questo perché lo segui, in realtà lui come tanti altri anche nei testi, no? Parlano di soldi, cioè lui addirittura Money Gang, cioè la sua gang, no? E lo fanno perché vogliono risaltare il fatto che in un'epoca in cui magari ci possiamo allacciare pure all'argomento che avevi accennato, di il cambiamento in passato era più collettivo, hai nominato 99 Posse, tutti gli assalti frontali, sì. Scusa. In realtà adesso i giovani il cambiamento lo vedono come individualmente, cioè per loro il cambiamento avviene per via individuale. Ciò non significa che non hanno la loro crew, il loro gruppo e che vogliono portare al successo non solo se stessi ma anche il gruppo di persone che li hanno aiutati ad arrivare lì. Parlavamo dei produttori, persone che li accompagnano, persone che li aiutano a scrivere i testi, oppure persone che comunque nei concerti suonano con loro. Il problema è che queste persone comunque ragionano in un modo individuale, cioè io sono con la mia crew, ma ragiono come crew, non come cioè io non mi faccio portavoce di una collettività, io porto avanti i disagi di una collettività, però in realtà il cambiamento lo vedono come per via individuale, quindi loro raccontano quello che succede nel quartiere, quello che succede anche nel, poi dopo faremo una digressione pure sul privato, però lo fanno sempre ostentando il fatto che loro ce l'hanno fatta. E il successo per un giovane qual è? Avere soldi, poter comprare la droga, perché poi ne parleremo di tutto di questo, del perché della droga, e soprattutto per i ragazzi avere successo, quindi avere donne. E quindi queste sono le tre tematiche fondamentali, cioè loro intravedono essere arrivati, il fatto che fino all'altro ieri non si rifilava nessuno all'interno del quartiere, perché questo è un altro filone che vorrei affrontare adesso. Il ruolo della donna in contesti, soprattutto in contesti difficili, ma non solo. Spesso che cosa succede? Che questi ragazzi totalmente sfigati, perché non hanno successo, non hanno soldi, vengono da infanzie difficili, vedono l'avere le prime ragazze, uscire con le ragazze come il sinonimo del successo, dicono io ora ce la faccio e riesco a avere le ragazze. Sì, se posso integrare, diciamo, questa prima parte del tuo ragionamento, no? I trapper sono figli di questo tempo come tutti noi, come anche gli stessi camorristi, come anche gli stessi figli delle famiglie, dei clan di Cosa Nostra di 20-30 anni, come noi stessi. Cioè questo in realtà, anche se ce lo nascondiamo più spesso di quanto dovremmo, è una verità, cioè c'è una continuità storica, sociale, di fondo, che ci rende più simili di quanto pensiamo. Il discorso dei soldi, della ricchezza, dell'ostentare collane, dell'ostentare la disponibilità, l'accesso alla sessualità in maniera, diciamo, che altri ragazzi coetanei non hanno, è semplicemente la cartina di tornasole di un contesto sociale in cui effettivamente il successo non è più associato al riconoscimento di una comunità di cui si fa parte, ma viene associato alla possibilità di acquistare e conseguire beni, cioè una fase avanzata in cui allo storico consumismo il capitalismo associa anche una automatizzazione dei rapporti dovuta anche a, diciamo, come dicevamo prima, alla virtualizzazione dei rapporti. Scriversi in chat, per quanto possa essere una cosa importante e anche gravida, diciamo, di cose buone, non è la stessa cosa che vedersi e affrontarsi nella realtà. Questa è una cosa di cui non possiamo far finta, di cui possiamo dimenticarci. Questi ragazzi, noi, chiunque cresce in questi anni, soprattutto chi cresce, si forma in questi anni, vive in un mondo in cui è difficile avere una unica macro comunità di riferimento con cui confrontarsi su quali sono i valori, e cui l'unica cosa riconosciuta è quanto riesci a comprare, quante cose care riesci a comprare. Gli altri sono micro valori di micro comunità per cui è difficile confrontarsi con altri. Per cui in questo contesto, mentre appunto per Militantà, il cantante di Assalti Frontali, il successo è che quando va in una manifestazione tutti lo ringraziano per quello che fa, anche se va in una città dove non ha mai vissuto, per questi ragazzi l'unico modo di riconoscere se stesso il successo è: io non sono più un atomo come gli altri, io non sono più uno dei tanti che provano a dire io esisto. Questa cos'altro non è se non la società delle stories su Instagram, di TikTok, adesso dei ragazzi più piccoli, cioè del mettersi in mostra per essere riconosciuti tramite il consenso di like, di cuoricine, eccetera eccetera, cioè dire io non sono la massa indistinta. L'unico modo spesso per dire non lo sono, purtroppo, per questi ragazzi è: io posso entrare da Gucci e comprarmi una roba che tu non ti puoi comprare, io mi posso mettere le scarpe Balenciaga, io se faccio una story su Instagram ho 10.000 persone che mi mettono like dopo 10 minuti. Il valore quantitativo di questa cosa è una delle ragioni per cui questi ragazzi puntano molto su questo. L'altra parte della medaglia, che adesso vorrei magari far esemplificare con una canzone, che poi l'altro è proprio, esatto, di Side Baby, che accennavo prima, che è lui questo in foto, è che è una società fortemente performativa, dove tutto quello che avviene durante la giornata in maniera consapevole o inconsapevole è una performance, perché nel momento in cui tu registri tutto quello che fai con una foto che metti su Instagram, con un video che metti su Facebook o con cose del genere, con i gruppi WhatsApp in cui magari o su Twitter devi fare la battuta più divertente degli altri eccetera, l'altra faccia dell'essere costantemente in uno stato performativo è l'ansia e la depressione di chi non riesce ad essere esattamente quello che si stacca. Se vedete, diciamo, i dati diciamo, rispetto alle malattie mentali, insomma alle patologie mentali tra i giovani, vedete che negli ultimi decenni, nell'ultimo decennio, eccetera, c'è una crescita costante di questo tipo di malattie mentali, proprio la depressione e l'ansia, attacchi di panico, eccetera, eccetera, che sono tipi di patologie che sono spesso associate proprio a questo, alla sensazione di inadeguatezza nei confronti del contesto in cui si vive. E anche le droghe che si associano a questo tipo di... le droghe che si diffondono in questa fascia di giovani sono proprio associate a questo tipo di patologie. Allora, mentre se vedete, diciamo, la produzione culturale, soprattutto di filmica, ma non solo, degli anni 60 fino agli anni 70, la patologia di riferimento più comune è quella della schizofrenia o patologie di quel tipo, che è tipo di una società fortemente repressiva in cui ci si arriva a sdoppiare per pur di riuscire a starci dentro o non starci dentro, e quindi mi viene in mente appunto film come I pugni in tasca di Bellocchio o Diario di una schizofrenica della Cavani, eccetera eccetera, e le droghe sono droghe di evasione, di potenziamento, quindi appunto l'LSD, quel tipo di allucinogeno, eccetera eccetera. Oggi le droghe tipiche dei cantanti di riferimento di questa generazione sono la Purple Drink, Lean, insomma sono, diciamo, vari modi per dire la stessa cosa, sono gli sciroppi mescolati con gli sciroppi alla codeina mescolati con la Sprite, eccetera eccetera, che hanno essenzialmente un effetto ansiolitico e calmante, distonano, e questa è la reazione che spesso si cerca in una società che, facciamo, diciamo, che quando apri la porta ti dice corri, e corri più veloce degli altri. Questa cosa è più figlia della cocaina di magari degli anni 80 che non delle droghe alternative degli anni prima, cioè però c'è stato un crescere, come dicevamo prima, il discorso di un sistema monetario che comunque si atomizza e di una crisi economica che è asfissiante da più di 10 anni. La cocaina, che è l'altra droga molto usata in questi anni, è un po' lo specchio invece di quest'altra, della Purple Drink, della Lean, degli sciroppi, come diciamo. Solo che gli sciroppi sono forse una fase, diciamo, successiva, quasi terminale, diciamo, del rapporto col mondo esterno. È un po' come dire, comunque non ce la farò, ho bisogno di qualcosa che mi tiene calmo. Così come, insomma, la marijuana, che insomma, questo usa in tanti modi, ma viene anche usata anche per rilassarsi e per calmarsi. Questa altra faccia della medaglia, di cui non si parla mai, che viene nascosta dalla maggior parte dei trapper, è stata raccontata in maniera del tutto frontale, diretta, da una canzone di Side Baby, che è quasi un unicum in questa produzione. Poi magari sul finale, non so, faremo sentire forse questa canzone, forse un'altra di Marrakesh, che parla anche del vuoto, insomma, delle aspettative che crea questa società. Però già Marrakesh, come dicevamo prima, è un rapper di un'altra generazione, rapper di 40 anni, un'altra cosa. Cosa è Medicine? È la canzone, la prima canzone che tira fuori Side Baby, che si chiamava Dark Side, dopo che esce fuori dalla Dark Polo Gang. Dark Polo Gang è un po', viene considerata, diciamo, i Sex Pistols della trap italiana, cioè sono quelli più provocatori, più anche ambigui nel loro rapporto con il messaggio che danno, cioè pompano all'eccesso questa roba delle bitch, come le chiamano, delle donne, delle collane, dell'ice, cioè ghiaccio per intendere loro, eccetera eccetera, in maniera così forte da diventare quasi grotteschi. E c'è il sospetto, che io ritengo più che valido, che lo faccia con una certa ironia, un certo distacco, in questo senso, diciamo, così come era la grande truffa del rock and roll, quella dei Sex Pistols, potremmo dire la grande truffa della trap, della Dark Polo Gang, che non a caso è un gruppo di ragazzi borghesi e non provenienti da contesti disagiati come gli altri di cui abbiamo parlato. Dark Side è quello che va più a fondo con l'uso di droghe, insomma, si fa un sacco di male, va in comunità di recupero, eccetera eccetera, esce dal gruppo, si cambia nome, Side Baby, e fa questa canzone che si chiama Medicine, che penso ad oggi l'unico esempio senza fronzoli, onesto e senza soprattutto rivendicazione della propria tossicità, come invece vediamo in altri bei pezzi di altro tipo, come Rehab di Ketama, 126 eccetera, ma in maniera, diciamo, nuda di quello che è la parte nascosta della società performativa che mostrano spesso i trapper. Allora, qua c'è pure il testo, tra l'altro, in questo. Ho preso le mie medicine ma non sento l'effetto. Sto seduto in piedi sul bordo del letto, da ragazzino in piedi sul bordo del tetto, lasciando cadere cose per sentirne l'effetto. I suicidio non mi contento ma ci penso spesso, lo ammetto, ultimamente ci stavo attraverso. Depressione, una condizione, credito in eterno, è tutto in testa, è una battaglia col cervello, e non dico questo perché sono un psichiatra, ma perché sono cresciuto in strada tra merda sbagliata, ma la scusa non so solo come sono, come sono, descrizione da sempre, non puoi tenerlo peggiore, giro un tempo morirei senza sentire l'amore. Non ti spero che morirò, non sentendo dolore, ma soltanto nelle passi andare via con onore. Questa canzone secondo me è un pugno nello stomaco, ogni volta che la sento comunque mi fa un effetto, perché al di là di tutte le maschere, di tutti, diciamo, i travestimenti che si può dare alla propria inquietudine eccetera, racconta come molti ragazzi di quell'età si sentono quando non hanno la videocamera, come si chiama, la camera del telefonino accesa per riprendersi felici. La società della felicità a tutti i costi produce questo, e questo spesso viene nascosto. Fortunatamente ci sono delle crepe in questo racconto delle trapper, e sempre più si cominciano a anche loro cominciano a raccontare questa parte. Fortunatamente, perché è importante che i ragazzi che li prendano ad esempio, li trattino come idoli, si rendano conto che non è facile essere arrivati dove sono arrivati loro, cioè ci vuole un sacco di lavoro come dicevamo prima, B c'ha un grosso prezzo da pagare, e C non è detto che la felicità stia in quello, in quel tipo di riconoscimento che è l'accumulo di prodotti e l'accumulo di like su internet. E questa cosa, insomma, andrebbe compresa, indagata e capita di più anche da noi che magari andiamo nelle scuole, parliamo con i ragazzi o abbiamo magari cugini, nipoti più piccoli, perché è vera una cosa, il rapporto con l'emotività è completamente diverso da quello che avevamo noi in tante cose. Non vuol dire che questi ragazzi non provino quelle sensazioni di vuoto, di isolamento, di disperazione che abbiamo provato noi quando avevamo 14 anni in certi momenti. E così come noi ricorrevamo a quella canzone che ci capiva più di quanto ci potessero capire i nostri genitori, anche loro lo fanno con questi trapper. Sì, c'è poco altro da aggiungere, se non volevo parlare della figura, e poi magari parliamo, tu mi avevi chiesto anche un po', sì, di stradarci sulla figura femminile, che è un'altra roba molto interessante. Oh, su questo volevo ricollegarmi semplicemente per dire che, come dicevi tu, stanno iniziando ad uscire tre. Lui, Sai Baby, l'affronta proprio in modo diretto, anche perché lui ha una storia molto particolare, uscito dalla Dark Polo Gang, perché gli altri gli dicono, la situazione è proprio quella dello schifo esistenziale, cioè gli dicono ormai si è arrivato in una condizione, che non è che per loro siano degli stinchi di santo, però dicono ormai si è arrivato in una condizione che non ti teniamo più, non ce la facciamo nemmeno noi a tenerti, e quindi... Anche qui il parallelo con Sid Vicious e Sex Pistols. Esatto, sì. Tra l'altro, ce ne sono anche altri che non lo ammettono in modo così diretto. C'è Ketama, che è stato intervistato dalla Bignardi, che è un altro trapper giovanissimo, che lui nei suoi video, che veramente sono fatti con pochi soldi e che fanno milioni di views, racconta la sua riabilitazione. E lo fa cercando di passare come un vincente, però in realtà poi quando viene intervistato, lui lo racconta spesso e dice: io quello che continuo a fare, che faccio e che ho fatto, lo voglio raccontare non per dire agli altri che voi vi dovete drogare, dovete seguire il mio esempio, perché se io sono un consumatore di droghe è una cosa risaputa e non lo posso nascondere, però dice: io voglio mettere dinanzi al fatto compiuto i miei fan, le persone che mi vedono, che ascoltano i miei pezzi, dello schifo che è fare la mia vita assuefatto dalle droghe, alla ricerca sempre di droghe, che cerco soldi solamente per comprare droghe ed altro, e la condizione proprio in cui poi alla fine mi vado a ritrovare. Ora non proiettiamo il video, però ci sono due o tre video che mostrano proprio questa, questo senso quasi di nausea che lui spera di far arrivare agli altri. Poi non è detto che il messaggio arrivi in modo diretto, se bevi invece è molto più bravo, anche se in questa foto comunque lui, ecco, riallacciandoci il discorso, l'apparenza, cioè vedendo questa foto e leggendo quel testo non si direbbe che è la stessa persona. Lui veste 5.000 euro qui almeno, uh-huh. ha una felpa di Balenciaga che costerà almeno 2.500 euro con la mesi e mesi di stipendio nostro, esatto. Però ecco, questa cosa era molto interessante secondo me, da è un argomento che sarebbe molto interessante da approfondire. Noi quando andiamo nelle scuole, facciamo le nostre attività, di solito facciamo sentire questi brani, prima perché i ragazzi li attiriamo, anche perché poi spesso molti ragazzi non ascoltano tutti i brani. Un'altra cosa della società dell'apparire, che è tutto rapido, no? E che le canzoni escono di venerdì nella playlist di Spotify e il venerdì dopo già sono vecchie. E questo è un discorso che riguarda tantissimo gli artisti attuali, che ormai non fanno neanche più uscire CD, preferiscono pubblicare un singolo ogni 15 giorni di venerdì per avere più risonanza. Cioè, escono con due dischi l'anno di 20 canzoni, sì. Cioè, una volta magari facevi... De Gregori faceva un disco di 9 canzoni ogni 3 anni, per dire. Perché durava 3 anni. Esatto, è proprio un'altra cosa. Anzi, quelli di De Gregori durano ancora oggi, ecco. Però c'è questo mondo frenetico che poi viene contrapposto all'utilizzo di sostanze, il lean. Qua a Bologna abbiamo Dreth Gold che con Sfere Bassa ci ha fatto una canzone che ha indignato tantissimo, anche a me, personalmente indignato, però... è Tesla, quella lì? No, è Sciroppo. Ah, Sciroppo. Con Sfere Bassa l'ha fatta. Però è una canzone che comunque, fermo restando l'indignazione, anche la denuncia di dire che cavolo ascoltano i nostri ragazzi, ecco, se contestualizzati con quello che abbiamo detto fino ad ora, in realtà torna tutto. Ma anche se contestualizzato con quello che ascoltavamo noi, cioè i nostri genitori, alla fine canzoni con riferimenti più o meno espliciti alla droga l'ha fatta Clapton, l'hanno fatti Guns N' Roses, hanno fatto i Rolling Stones, cioè insomma certo. Anche a volte queste cose mi sembrano un po' eccessive, nel senso ci si dimentica che la persona, cioè il ragazzo c'ha anche una capacità di... io diciamo appunto mi ascoltavo in cameretta i 99 posse che parlavano di erba, legalizzazione, cioè, avevo 13 anni, la prima canna me la sono fatta a 19, cioè, non è che sono andato a correre. Sì, sì, no, anche è difficile trovarla, diciamo, è proprio per dire che con il messaggio che c'è dietro, in realtà ad un primo ascolto può sempre può anche scandalizzare, però poi se si viene contestualizzato, come dicevi tu, no? Quel tipo di droghe in realtà sono droghe che servono per quasi farti dimenticare, non farti accelerare. Loro non sono, quasi nessuno di questi è consumatore di cocaina o di quelle droghe, che anzi spesso loro parlano anche in modo nauseato da cocainomani o altri. Quello appartiene forse anche ad un'altra generazione di rapper, cioè la storia di Clementino, che ora si è riabilitato dopo un anno che lui purtroppo soffriva, era un utilizzatore di cocaina. Però questi ragazzi in realtà utilizzano le droghe ovviamente come strumento per evadere, ma per evadere da questa società che appunto è la società dell'apparenza, dei like, delle condivisioni. Quindi, però appunto volevo analizzare questo argomento delle donne nella musica trap per due motivi. Primo perché già l'abbiamo in parte analizzato, c'è... i ragazzi utilizzano la musica trap, cioè i trapper utilizzano il ruolo delle donne come per esprimere il fatto che stanno avendo successo e quindi nel loro gergo esagerano definendole bitch o di altro genere. Però c'è nell'ultimo periodo, è proprio una cosa recente, non è passato neanche un anno praticamente, una continua esposizione di trapper donne. E qui nelle foto vediamo Beba, Priestess e Shadia Rodriguez. Anche loro hanno storie totalmente diverse C'è addirittura Shadia Rodriguez che qui appare come Mangia Uomini. È un brano abbastanza pesante. Magari se è connesso ad internet, non ce l'avevo, però ne avevo portato un altro, ma anche Mangia Uomini è figo se riusciamo. Sì, cioè su YouTube sicuramente, se abbiamo la connessione ad internet. Perché intanto vi racconto la sua storia. Cioè, lei innanzitutto non è italiana, cioè non ha origini italiane, viene dal Nord Africa. Viveva in una situazione da ragazza, in una situazione tale di povertà che la portava a vendere le foto sue insieme ad un'altra amica per fare soldi. E lei, a differenza di altri di altre persone, insomma, che magari potrebbero dire io lo voglio nascondere questo, lei ha deciso invece di in questa canzone di raccontarlo a modo suo, ecco, e di dire alla fine io sono una mangiauomini, quello che ho fatto l'ho fatto perché avevo ovviamente, l'ho fatto perché in quel momento io avevo bisogno di soldi, poi in realtà perché avevi bisogno di soldi, puoi fare i soldi in mille modi, perché lo fai in questo modo si aprirebbe tutto un altro discorso, però lo dobbiamo contestualizzare al suo contesto e familiare, al suo contesto di quartiere in cui è nata e ha vissuto. E allora io direi facciamo così, se ti va bene va bene, vediamoci Shadia Rodriguez, sì. Poi io aggiungo qualcosa sulla figura femminile della trap e poi anche perché noi possiamo tenere esatto in ostaggio per troppo tempo, ci piacerebbe che qualcuno di voi ci dicesse qualcosa di che gli interessa o di interessante. Allora sentiamoci. Ah, questa è un'altra cosa, ora siamo obbligati a sentire l'annuncio, perché tantissimi adesso nuovi trapper che cosa fanno? Si mettono lì e con un centinaio di euro su YouTube riescono a farsi conoscere tramite la pubblicità, è un'altra cosa. Allora, se ci fossero qui, diciamo, penso 10 femministe si accenderebbe un dibattito furibondo tra di loro, perché chiaramente, diciamo, questa è la poetica, chiamiamola così, il modo di fare trap di Sheila Rodriguez è molto netto. E passa anche per il discorso, diciamo, prima, diciamo, della reificazione, dell'oggettivizzazione della donna nell'ambito, diciamo, delle canzoni trap. Come accennavamo prima, molto spesso la donna nelle canzoni trap viene definita bitch, ma che bitch, insomma, immagino lo sappiate, comunque diciamolo, insomma, significa in inglese puttana. Va detto che anche lì, come ogni parola, anche questa va contestualizzata. In America ormai bitch viene utilizzato quasi come termine neutro, sia per uomini che per donne, e viene usato più per dire stronzo, stronza, che non puttana. Nel colloquio tra amici, nello scherzo, viene utilizzato veramente come un insulto quasi generico, che non ha quasi più sessualità. E in Italia ancora non è quella roba lì. Nelle canzoni, la mia bitch, la tua bitch, vuole stare con me, eccetera, eccetera, e c'è una forte componente di critica nei confronti di questa cosa, perché chiaramente, come diceva Alessandro, in molti testi dei trapper maschi, la donna viene messa sullo stesso tavolo delle conquiste con cui mostrare al mondo di essere arrivati, insieme ai soldi e insieme ai like. Quindi c'è il sesso che posso fare con le donne, i soldi che posso riuscire a gli oggetti che posso comprare, i vestiti che posso comprare, e quanta gente mi segue. Cosa succede? Ecco, questa roba chiaramente è criticabile. Posso che anche in Italia, io immagino, insomma, che anche in Italia questo uso di questa terminologia si va e si andrà stemperando, per cui le bitch verrà detta in maniera così esagerata, che a un certo punto si dirà bitch senza neanche pensare a dare un giudizio morale, no? È interessante l'approccio femminista a questa cosa di Sheila Rodriguez, che non è quello di negazione, di rifiuto di questo tipo di linguaggio e di questo piano di confronto che è la sessualità esplicita, ma è il capovolgimento. Per cui, per esempio, uno dei primi pezzi con cui Sheila Rodriguez ha fatto anche dei benuni, 13 milioni ci sta qui accanto, che si intitola proprio Bitch 2.0, e quindi lei stessa si dà della bitch e lo rivendica, così come poi adesso invece uno degli ultimi pezzi, Mangia Uomini, lo rivendica con altre parole. Qual è, diciamo, il suo discorso? Il discorso è: io rivendico una sessualità del tutto libera e del tutto analoga nella sua libertà anche di svincolamento dal piano emotivo che è concesso agli uomini. Questo forse è uno degli ultimi tabù quando si parla di sessualità tra uomini e donne, cioè si arriva a accettare che la donna sia molto promiscua a livello sessuale, però dà fastidio ancora il fatto che, così come l'uomo, si voglia fare una scopata solo per l'aspetto meccanico, per il piacere, non perché in fondo spera di conquistare quella persona, perché vuole che diventi il suo partner. Lei invece in questa cosa qui va dritta come un treno, non si pone il problema assolutamente di essere fraintesa, e dice: sì, esattamente, io sono una bitch, ma, insomma, lo rivendico, ne sono orgogliosa. E questo, diciamo, ci sono anche ampie, ormai anche sollicitate frange del femminismo che rivendicano questo tipo di parità, insomma, eccetera, eccetera, e usa anche la libertà in qualche modo di vendere il proprio corpo, non nel suo caso nel senso di prostituirsi, ma di utilizzarlo in un video musicale, come normalmente facevano i cantanti pop, fanno ancora, mostrando i culi, eccetera, eccetera, anche cantanti rap, quindi oggettificando la donna, reificando la donna. In questo caso sono io che decido di fare questa roba, e lo faccio solo perché sono così libera da essere libera di dipingermi come una stripper, cosa che lei tra l'altro faceva, insomma, il lavoro di lap dance l'ha fatto per un po' di tempo, e non c'è nulla di male. Quindi questo è molto interessante. Altre trapper sono più sfumate, però, diciamo, chiudo allargando lo sguardo sulla sessualità nel mondo trap in genere. Questo è uno dei dati più interessanti, anche se ne parla poco, di differenza rispetto al passato, che la prima generazione, se vogliamo, di musicisti, musicisti forse è una parola esagerata, di rapper, che rivendica una sessualità fluida. Se rimaniamo alle trapper donna, ce ne sono diverse, mi viene in mente adesso Leslie, che rivendicano proprio l'essere addirittura lesbiche, quindi neanche insomma questa sua pansessualità di Shadia, che questa canzone dice insomma non sono gelosa della tua tipa, anzi porta lei anche un'amica e fa una roba e che Dio ci benedica insomma, ma anche molti dei trapper maschili in realtà sono tutt'altro che macisti, sono molto meno macisti, poi magari facciamo un passaggio dei cantanti pop. Intanto nel vestiario, si dice, rifacendosi al primo che l'ha fatto, Kurt Cobain, con gli occhiali da donna, nella famosa servizio fotografico, mi pare per Rolling Stones, ma Sfera Ebbasta in questa foto qui, con la chitarra, se non sbaglio, c'ha proprio gli occhiali da donna, che sono diventati un po' un suo marchio. C'ha una pelliccia rosa. Anche Achille Lauro. Achille Lauro è un altro che nel frattempo lui sta andando verso altri lidi musicali, però è partito come trapper. Rivendica, forse è l'unico poi che in maniera molto esplicita tra gli uomini dice, cioè la sessualità, la divisione tra eterosessualità e omosessualità è veramente di un'altra generazione, non ci riguarda proprio, è proprio stupido averci a che fare con questo, per noi non è un problema, e molti di questi rapper hanno anche un'estetica molto più femminile di quello che erano tanti anni che a parole era magari che era l'estetica di quei rapper che negli anni 90 magari facevano i pezzi per le compagne eccetera, però magari erano molto più vecchio stampo nei rapporti personali, e questa sessualità qui insomma che è più fluida e più indistinta, è appunto, mi ricollego al discorso che dicevo prima, è molto più avanti rispetto ai cantanti pop, perché se noi andiamo a analizzare molti testi pop che ancora ci propinano i cantanti italiani, c'è una visione molto sessista della donna, la donna che è questo angelo che insomma si deve riconquistare, che è brava soltanto quando bada i bambini eccetera eccetera, oppure la megera che ti ha lasciato, che ha scelto la propria indipendenza Nella musica indie, oltre che anche nella musica indie, che secondo me da questo punto di vista è molto dietro. Se tu prendi un pezzo così provocatorio come quello di Shadia Rodriguez, o come alcune performance come quelle di Achille Lauro, non le trovate nei cantanti indie italiani, in Calcutta, in Tommaso Paradiso, in chi più vogliamo, c'è quella roba lì, quell'avanzamento che si riconnette a quello che dicevamo prima, al vissuto di queste persone, che sono una generazione per cui la sessualità non è più così netta come era per noi, è un altro dato interessante che li distingue dai miti che avevamo noi quando avevamo 15 anni, insomma. Adesso io... Sì, se volete, vi invito a insomma, se avete qualche dubbio, anche qualche riflessione, qualche cosa, non viene tanto, siamo così pochi che non c'è neanche da essere imbarazzati, insomma. Io volevo fare una domanda. Il modo in cui i trapper parlano del mercato musicale, cioè di sé come imprenditori, è un modo che sembra riprendere quelle categorie dell'economia clandestina di quando lo spacciatore parla di sé come imprenditore, no? Spingere la droga, spingere la musica, far girare, avere una gang, e quindi c'è un gruppo di persone. Mi sembra che se un'esperienza di 15, 16, 17 anni, che è una generazione, ma è anche una classe sociale, che è diventata un underclass, perché non sono i figli della working class, sono i figli della disoccupazione, no? Quindi hanno più o meno capacità, cioè inserimento dentro le economie di strada, il piccolo spaccio. Ecco, poi di fatto diventano famosi perché nello stesso modo in cui osservano lo spaccio e si innestano in questa economia di strada, poi pensano la musica e applicano quella categoria lì. Ok, allora questa riflessione è molto interessante. Secondo me, diciamo, in parte c'entra, in parte ci sono altre questioni rispetto alla gang, riassumiamo così, tra musica e strada. Poi naturalmente, Alessandro, dimmi cosa ne pensi, tu se sei d'accordo con me oppure no con lei. Allora, intanto va detto che la trap stessa, la parola stessa trap, trapper, le trap house, originariamente erano in America, dove è nata, ad Atlanta, insomma quella zona lì, sono praticamente le occupazioni dove si spaccia, diciamo, quindi i posti, diciamo, per fare un parallelo con un brutto fatto di cronaca nera, quella specie di palazzi mezzi disabitati dove è stata uccisa Desirée Mariottini a Roma, a San Lorenzo, cioè quei posti, quelle terre di nessuno dove ci sono dei mezzi squat, mezzi posti dove si spaccia. Quindi già a livello di fondazione proprio del genere, del sottogenere, si parte già dal discorso dello spaccio. Il discorso della gang, attenzione perché poi, e quindi diciamo la gang viene da quel microcosmo di semiotico lì. Però quella che adesso è la gang si chiamava 10 anni prima la crew, cioè nel senso il concetto di aggregarsi per piccoli gruppi di coetanei che hanno i tuoi stessi interessi e le tue stesse passioni c'è sempre stato. I rapper degli anni 90 la chiamavano crew. Al di là dell'aspetto musicale, io quando andavo con i miei amici dicevo: mamma, sono con la mia comitiva. Ora non so come si chiamano, insomma. Però diciamo è molto proprio perché l'adolescenza è il periodo in cui finalmente il bambino non è più bambino ed entra nel mare aperto sia delle relazioni che della propria crescita ormonale, sessuale, eccetera. È proprio la fase in cui si ha bisogno di un gruppo chiuso a cui ancorarsi, che si chiami comitiva, crew o gang. Quindi diciamo, questa cosa in parte secondo me è dovuta a quello. Il tuo ragionamento per me è molto utile perché ci dice una cosa, cioè ribadisce una cosa che forse era uscita prima nella discussione, che la società in cui viviamo permea tutti. La società in cui viviamo è una società di capitalismo avanzato che ha pochissimi freni di tipo comunitario e per cui quei rapporti di forza che tu vedi nella strada dello spaccio e che poi loro riportano nel mercato musicale, sono gli stessi rapporti di forza, le stesse dinamiche del capitalismo avanzato. Cioè, se tu ci sono fiorfiori di saggi che lo dicono, insomma, di persone più preparate di me, l'organizzazione del mercato, della droga, scampia, eccetera, eccetera, se vuoi, se la pulisci l'aspetto, diciamo, prettamente di strada e criminale, ha tantissime dinamiche che sono associabili all'accumulazione di capitale, di aziende, eccetera, eccetera, del mercato capitalistico avanzato. Per cui in questo senso tutto si tiene. È vero che sono le stesse strutture, ma sono le stesse strutture del pesce grande che mangia il pesce piccolo, che ha bisogno di una cordata per fare la scalata e quando è sopra cerca di allargarsi il più possibile per non avere nessuno che si mangi lui. Cioè questa dinamica qua, su altri livelli, su altri piani, è la stessa che vedi nel capitalismo. Quindi sì. Cioè c'è questa catena di passaggio tra le varie fasi. No, io semplicemente non avrei da aggiungere molto altro. Io l'ho interpretato anche come giro di denaro, diciamo, perché io provengo dall'agroaversano e le ho viste in prima persona come funzionano le piazze di spaccio, insomma, a Scampia o in altri territori. Una cosa che mi sento di paragonare forse è il giro dei soldi in nero, che c'è ed è un argomento che è poco affrontato, anche se ultimamente alcuni rapper iniziano ad affrontarlo. Il caso di Draft Gold, cioè, ora ovviamente non posso dire che Draft Gold avesse dei soldi in nero in casa, però quando la polizia è arrivata a Milano, a casa sua, allertata dai vicini perché c'era troppo baccano, oltre a trovargli un sostantivo molto elevato di marijuana, gli hanno trovato anche oltre 15.000 euro di soldi in contanti, che lui utilizzava insieme appunto alla KNGL in quel caso, insomma c'erano tutti i suoi amici della sua gang, quindi c'è anche questo discorso e di solito se loro girano col borsello, Dref Gold di Bologna ci ha dedicato una canzone al borsello, perché dice io col mio borsello vado ovunque, quando suona ai concerti c'ha sempre il borsello, perché dentro c'è l'in e ci sono i soldi, cioè, quindi non lo dice apertamente, però altri lo dicono più apertamente, c'è ora uno nuovo di Lozano, Paghi, che addirittura dice, cioè per raccontare il nero dice nel mio quartiere se gli chiedi lo scontrino a qualcuno gli tremano le mani, addirittura dice, perché... No, ma quello è in tutti i quartieri, non so a Bologna, insomma. Insomma, però c'è pure questo fattore di come poi utilizzare, come trasformare questi soldi in modo legale. E spesso diciamo che tutti i collaboratori vengono pagati in nero e anche è vero questo, anche proprio perché c'è tutto questo giro che parte dai locali, però fondamentalmente. Se ci sono altre domande, altre riflessioni, se non siete d'accordo con quello che abbiamo detto, insomma. Potete anche dire la trap mi fa cagare, cioè proprio chiusura proprio in totale di contrasto con quello che abbiamo detto. Poi è chiaro che ci sono dei grossi limiti, cioè è chiaro che se ti senti una canzone dei Queen e poi senti diciamo l'armonizzazione di un pezzo basico trap dici vabbè ammazza, però c'è un mondo, però appunto tanti pezzi anche del punk degli anni 70 erano suonati male, insomma, quindi ci sono vari tipi di musica, ognuno c'ha una missione diversa, ecco. Considerando che siamo a Luna, non so se però forse lui voleva fare. No, sì. Inserisco, ma veloce. Sì. Sono arrivato in ritardo, quindi una parte della discussione che l'ho persa. Quindi potrei dire una cosa che voi in realtà magari avete già spiegato. È un mondo che non conosco. E ho ascoltato quel Side Baby sì. poco fa con voi. Effettivamente quella canzone turba parecchio. Però ho difficoltà a immaginarlo vicino che so, a un servizio, perché comunque l'idea che ho io forse è che sono un po' antico, che diciamo tutti i patriarchi del punk, del grunge, eccetera, avevano come sottotesto l'autodistruggersi, ma in senso di avere una missione, no? Questi qua non mi sembra che abbiano una missione. Sì, questo un po' l'abbiamo affrontato nella prima parte, la differenza di contesto, però mi serve questa tua considerazione, se ti posso dare tu, per aggiungere una cosa, la famosa diciamo differenza tra apocalittici e integrati, no? L'abbiamo detto, te lo riassumo, sì, diciamo la differenza con la musica di 30 anni fa è che anche la musica alternativa, diciamo di strada, 30 anni fa nasceva in un contesto antagonista che in Italia erano spesso rappresentati dai centri sociali, da quel tipo di relazioni e quindi di rifiuto dello Stato borghese, eccetera, e che adesso non esiste più. Diciamolo, ecco, quello che non abbiamo detto, lo possiamo ridire in maniera più esplicita, è che questo tipo di musica, la musica trap, rispetto alla critica del sistemica alla società in cui viviamo, è totalmente integrata, non è alternativa. Sono esattamente nel consumo, poi sono dei figli, così diciamo, sono il prodotto così estremo del consumo che ti permettono di trarre una critica. Cioè, appunto, ti permettono di fare canzoni come Medicine che ti dicono guardate dove arriva questa roba qua. Cioè, io ci sono stato così dentro che sono a questi termini qui. E quindi, no, al contrario di chi era fuori o che tentava di essere fuori e cercava di abbattere quella roba lì, qua siamo completamente dentro questo sistema. Però è un frutto così estremo di questo sistema che arriva a esserne la negazione, perché un sistema regge fino a quando dà l'impressione a tutti che sia in qualche modo armonico o in fin dei conti maggiormente virtuoso di altri sistemi. Quando cominci a vedere sempre di più i frutti devastanti di questo sistema, Anche se sono frutti più o meno inconsapevoli, quella cosa lì in se stessa, in sé per sé diventa una critica al sistema, no? Se il sistema produce questa canzoni come medicine, eccetera, eccetera, che sono dietro i like, vuol dire che è un sistema che gira a vuoto da tanti punti di vista. Manca una consapevolezza politica, però diciamoci la verità, la consapevolezza politica manca a tutti. Cioè, manca pure alle sardine, che gli voglio tanto bene, ma non è un movimento, è un movimento, diciamo, di dignità, di orgoglio, di valori base, di dire no, non possiamo finire così male, no? Ma la consapevolezza politica che ti porta a dire dove vogliamo portare questa macchina società da qui a lì, non ce l'ha quasi nessuno, non ce l'ha neanche, ora scusate, non posso parlare di campagne elettorali perché non voglio danneggiare, però diciamo neanche le forze più storiche con delle spalle larghe oggi hanno un'idea precisa sullo stato sociale, sull'immigrazione, su tutti i temi principali, su come non fare scappare i ragazzi all'estero. Per cui perché dobbiamo pretendere che se il sistema non ha una consapevolezza di se stesso ce la debbano avere i ragazzi in funzione antisistema? Sarebbe chiedergli troppo. Vabbè. Dico e chiudo. Sì. Perché ormai vai. Quella è Chiara Rodriguez. Sì, Shadia Rodriguez. Magari è molto più vicina, che so, al pop dei Duran Duran. Io mi immagino quei video dei Duran Duran dove si trovano le donnine attorno a loro e lei è una di quelle donnine lì. Perché anche lei è nel consumo e soprattutto il suo corpo è consumo. Allora, questa è una, è come ho premesso prima, se ci fossero due femministe qua magari si scannerebbe, perché è una questione molto dibattuta. C'è chi sostiene, io in qualche modo diciamo lo condivido anche abbastanza, che se tu consapevolmente usi il tuo corpo per fare qualcosa, in qualche modo sei libera, non sei schiava. Però se ne può dibattere. E la differenza tra le donnine dei video di Duran Duran è che le donnine del video di Duran Duran erano contorno e servivano a far risaltare la potenza del cantante Duran Duran. Qua invece la donnina, come tra virgolette definisci tu, prende il potere, decide, è lei che fa i soldi, è lei che decide cosa c'è in quel video, è lei che decide cosa dire, è lei che trasmette il messaggio, quindi è completamente diversa da quella, da quella roba lì. Poi si può discutere sul fatto che la mercificazione del corpo, anche se decisa su se stessi, sia un fatto positivo o negativo, però non è quella stessa roba lì delle subrette, non è una subrette, ecco, questo voglio dire. Anche perché lei dice io me li mangio gli uomini lì, cioè che poi è un classico di quasi tutte, è un classico di quasi tutti le trapper, cioè loro dicono in realtà voi nominate bitch così, però siamo noi che comandiamo alla fine, quindi c'è sempre questa ambiguità, però... se non ci sono altre domande, volevo chiudere con un video che secondo mettiamo? Me rende. Io metterei quella più allegra, quella più di là. Io però ho un amore per Frankie Energy. Vai. Quindi allora, volevo mettere... contestualizziamola. Non so se avete sentito, se non l'avete sentito, sentitelo perché è un album accessibile anche per i non fan del rap, che è uscito da 3 settimane. Persona di Marrakesh. Anche lui è una storia bellissima, c'è una bellissima intervista con la Bignardi. Lui è un figlio di immigrati siciliani che ha vissuto nelle case popolari di Milano, il padre viveva in casa con 7 persone, non avevano il bagno in casa, quindi come adesso tanti immigrati, da lì si è tirato fuori tramite il rap, eccetera, eccetera, ha fatto questo album che si chiama Persona e che prende spunto sia nella copertina che sia nel nome da un film di Bergman, quindi insomma riferimento alto finalmente, e che usa la parola persona proprio in quella funzione in cui è stato il film, come tra l'altro viene usata in inglese, persona in inglese significa non persona come in italiano, ma in qualche modo il personaggio, l'avatar, come si usa dire di oggi, della persona vera. E lui in praticamente tutto un album in cui lui dice, che apre con questa citazione del film, in cui lui dice la visione, il modo in cui tu vedi te, c'è un abisso tra il modo in cui tu vedi te stesso e il modo in cui gli altri vedono te stesso, ed è un abisso inconciliabile. Questo album lui fa tutta una serie di... ogni canzone corrisponde a una parte del corpo, tranne fisica, e questa canzone che aspetta... Non... È l'unica che... Se questa, il cervello. Questo è il cervello, e riprende proprio il gancio con gli anni 90. Esatto. Quindi praticamente tutti conoscerete la canzone Quelli che ben pensano di Frank I Energy, che negli anni 90 è stato il primo forse singolo... Che è diventato mainstream senza rap, e che criticava la borghesia, l'ipocrisia della borghesia. Allora lui la rifà con, insieme a Coez, altro... Altra star dell'indie italiano, che però non a caso viene dal rap, dal rap. La cambia in quelli che non pensano, e l'attualizza. Noi chiuderemo questa canzone perché è un bel ponte tra il passato, no? E il presente. E scusate, non l'abbiamo fatto prima, ringraziamo Giulia, sì. Che ci ha invitato con l'Osservatorio della Legalità del Comune di Bologna, che ci ha permesso di essere qui. Ora, al di là, diciamo, di quante persone vengano o non vengano, è importante che anche in zone come queste si parli di culture giovanili, e soprattutto di mafie, di rapporto dei ragazzi con la criminalità, perché dicevo all'inizio, faccio parte di un'associazione antimafia, lui con Caracò fa un sacco di roba con Alessandro Gallo, insomma, vanno nelle scuole, parlano con i ragazzi di mafia, eccetera eccetera, quindi ne possiamo parlare con un minimo di consapevolezza. Questo è territorio dove le mafie fanno un sacco di affari, tanti, l'Emilia Romagna è piena di clan che investono e reinvestono. Il fatto che non la vedete più di tanto non significa che non ci sia, ci sono e sono tante, e vi posso assicurare da siciliano che vive a Roma, quindi due posti eccelsi da questo punto di vista, che prima si entra in un posto con riciclaggio, poi quando cominci ad avere la maggior parte delle attività commerciali di un quartiere cominci a fare altro e cominci a radicarti e a dettare anche i tempi e qual è la legge del posto. Quindi insomma, non disinteressatevi, non pensate che tema esotico la mafia, perché vi assicuro che in Emilia Romagna ce n'è tanta. I processi come Black Monkey a Modena, a Reggio Emilia, in cui hanno visto tra l'altro anche Giovanni Tizian come giornalista, che ha raccontato i fatti, è stato minacciato, sta sotto scorta eccetera eccetera, lo raccontano. Proprio in queste fasi in cui la mafia è poco visibile bisogna non sottrarsi alla questione, perché sono le fasi in cui è più facile ricacciarla indietro. Ringrazio anche Giulia per averci invitato, e niente, vi salutiamo con Quelli che non pensano. Pensano a quelli che non pensano. Oh, algoritmo che sei di serve, manda il mio pezzo nella top 10, più video delle tendenze. Mandami uno spot ad hoc, non so cosa comprare. Tu che mi dati sensibili per guidare e votare. C'è chi vede si droga per non pensare a chi viene naturale. Non sei informato se non ti leggi il giornale, e se lo leggi sei informato male. A Uma Uma Turman, la donna forte che un po' ti turba, con figlio in rete da quando in culla come Truman. Vedo un obeso anche lui occupa, e più si abbuffa più gente esulta. L'era della musica sempre no, questa era la canzone di gara infinita, chi se la mena. L'ignoranza svetolata come bandiera, il sonno della ragione vota Lega. Adesso cosa facciamo? Pensavo di trovarti qui. Sono sul fondo e scavo, aspetto ad una mano, siamo morti. Ti senti preso a ramo, mi sento anche così. Noi siamo quelli che sperano e sbagliano, quelli che non pensano. Oh, cazzo, su serio davvero, mai visto che il tipo ha postato sta roba? Togliete il filo, togliete di social, è stata di pizza. Le pasti che vengono bene le foto, vogliamo la pizza. O Caravaggiolo che vengono bene le foto, di te che pensano di darla ma non sanno chi. E sono un po' l'ultima spiaggia di Carlo Beach. Sono tornato sul mercato come Keanu Reeves. Assi la mano che ha pensato che ho rubato il bis. Ma questa fine, se non contesti, io sono citi. Quando faccio la vaccina, te la perdisti. Perché di senso, siccome testi nell'indie. Trappano i bimbi, sai che su streaming. Ma provo Lucio Battisti, volantisti, chiamano fischi. Marrakech, facciamo come a Cincinnati. Su via, siamo adulti non vaccinati. Il senso è nascosto così bene che non c'è. Non avrai altro premio al di fuori di me, yo. Adesso cosa facciamo? Pensavo di trovarti qui. Sono sul fondo e scavo, aspetto ad una mano, siamo morti. Ti senti preso? grazie a tutti per essere venuti.